E una buona sera, un buongiorno, una buona mattina probabilmente anche per qualcuno che ci sta ascoltando tramite il blog 451frammentisonori.noblogs.org. Qualsiasi sia la vostra ora, ben ritrovati dentro 451 Frammenti Sonori. Un saluto caldo, saluto da Max Macchia, che questa sera insomma continua a quello che era stato un po' tracciato nella prima parte, questa sorta di omaggio a un immaginario, degli immaginari più potenti, come dicevo la scorsa volta, prima trasmissione di quest'annata 17-18, Blade Runner, Guerra dei Mondi, era appunto così la dedica indiretta il nostro correre appunto verso questo Blade Runner. Quello che tra l'altro sfuggiva forse l'altra volta volutamente anche per molti versi era il fatto appunto che con l'ultimo Blade Runner si va di fatto a riprendere, sì, senz'altro il primo, ma si va anche, come dire, anche ad aprire quello che probabilmente sarà non forse una saga, ma a riaprire tutto un immaginario che ovviamente è legato ai due, a questo punto, Blade Runner. Se 2049 rinverdisce il primo, sicuramente il 2049, che non so poi quanto successo, so che in America sta andando benino, in Italia qualche dubbio ce l'ho sul fatto che stia andando bene, ma a parte insomma questa che potrebbe essere un'ennesima conferma del fatto di vivere tempi da Blade Runner, quindi da replicanti, e forse anche non rendendocene conto, questo forse è la cosa insomma più grave, forse i replicanti ubbidienti e come il 2049 sta facendo vedere insomma da qualche settimana sugli schermi, pochi giorni poi in realtà, una generazione quasi perfetta appunto di quindi legata a un'obbedienza al controllo sistematico, e facendo riaprire anche appunto quello che si era distopico immediatamente dentro il primo Blade Runner, dentro questo anche forse una riflessione rispetto ai nostri giorni, rispetto insomma a quello che è l'ambiance, chiamiamolo così, sociale, che si connette poi con tutto quello che è la produzione, riproduzione sistemica o forse asistemica, quindi fuori dal mondo, extramondo, che anche qua viene magari più richiamato rispetto al primo, e anche questo insomma riesce a far come dire riflettere su probabilmente un altrove che nel primo Blade Runner c'era, come anche fondativo per molti aspetti, ma non veniva così sottolineato come in questo 2049, che invece esprime proprio una sorta di così di fascinazione, anche di grande paura rispetto appunto all'extramondo, oltre che essere insomma l'ido immaginario per molti che vivono sulla Terra, insomma, come forme quasi derelitte di quello che fu umano, di quello che è ancor più umano tramite replicanti, che però appunto iniziano già a ribellarsi, quindi di fatto stanno creando qualcos'altro di diverso. Sicuramente l'extramondo viene visto come qualcosa di assolutamente lontano, impalpabile, e in questo senso anche di alieno, quindi doppiamente alienante, anche rispetto appunto come poi si vive nella visione del 2049, e come vivono appunto i personaggi che a un certo punto creeranno appunto queste sorte di scappatoie, in questo senso sul serio a un certo punto può prendere la forma escapistica il 2049, questo Blade Runner, e con appunto questi accenni extramondi, a escapismo, a quello che poi un percorso che parte dall'alienazione diventa antialienante. Beh, uno degli omaggi più grandiosi senz'altro è quello di Jeff Mills, con il suo EP Blade Runner, tra The Art of Connecting, dischi strepitosi usciti in vari mix, dove Jeff Mills, tra l'altro, oltre che fare quel disco eccezionale che fu Metropolis, quindi un omaggio al padre di tutte le fantascienze filmografiche, potremmo citare anche Méliès, però diciamo quelle con una complessità non visiva, ma diciamo anche extra, appunto, filmica, no? Rispetto a un immaginario che senz'altro è stato fondato da Méliès, però che poi, appunto, nello sviluppo di Metropolis diventa qualcosa, appunto, di spinto, di fantascientifico, e quindi in questo senso diventa proprio la pietra miliare, e poi con tutti i rimandi anche nel 2049, tra l'altro, nell'ultimo, appunto, Blade Runner, come d'altronde nel primo, ma come in tutta la fantascienza, che ovviamente anche soltanto di rimando ha attraversato Metropolis. Bene, Jeff Mills fa questo disco intorno, appunto, agli anni, primi anni zero, Metropolis, e si ricorda che uno dei suoi grandi immaginari, forse non ha neanche dovuto riflettere tanto, insomma, è venuto da sé dopo la riflessione sonora su Metropolis, beh, non poteva che esserci quella su Blade Runner, disco, ripeto, strepitoso, ma strepita come potrebbe strepitare alcuni replicanti del primo disco, o forse lo stesso Descartes, qui in una chiave molto ambigua, quindi questo l'avevamo detto nella prima parte, con quel essere non essere replicante, quello ovviamente legato al director's cut di Ridley Scott, ma non vi dico più niente, perché sennò incomincio a complicare troppo le cose, magari mi ci perdo anche volutamente, perché no, perdersi dentro Blade Runner, come probabilmente sto facendo, insomma, in questi ultimi giorni, sia a livello sonoro che a livello visivo, e per il momento come dire, vi rimando, appunto, all'immaginario creato su Blade Runner, sonoro ovviamente, di Jeff Mills, per iniziare questo 451 frammenti sonori. Di Blade Runner di Vangelis, che inizia quella, con quella panoramica eccezionale su una Los Angeles oramai proiettata verso la propria scomparsa, no? Come appunto succederà nel secondo, il drone poi eccezionale di Vangelis, che per molti versi insomma diventerà anche così un disco maledetto, una colonna sonora maledetta, visto che poi addirittura metteranno in ballo Bernstein per una versione sinfonica, che sarà il disco poi che girerà per 10 anni, mettendo soltanto una piccola parte, End of Title di appunto Vangelis nella colonna sonora, che veniva spacciata appunto come originale, operazione insomma piuttosto discutibile. seppur poi non così tremenda, in effetti poi si parla sempre di Bernstein, e però insomma tutt'altra faccenda rispetto poi alle varie edizioni, tra l'altro nell'assurdità anche, permettetemi di dire, di non ancora un'edizione definitiva della colonna sonora di Vangelis. Comunque 10 anni dopo, nel 92, iniziò a uscire insomma quello che era la colonna sonora, appunto, di o parte della colonna sonora di Vangelis. Poi dopo ci sono state anche varie edizioni, mai però arrivando appunto alla definitiva con non dico tutti i take, ma insomma quelli che si sentono nel film, perlomeno del director's cut, ecco, quelli probabilmente bisognerebbe metterci. Comunque poi potete anche costruirlo da voi, non è particolarmente difficile, tramite la rete, la versione definitiva, insomma. In effetti poi ci sono anche stati veramente bootleg su bootleg, e tra l'altro anche Jeff Mills con il suo Blade Runner finirà in una sorta di cofanetto che cercherà di essere definitivo rispetto alle musiche che hanno influenzato Blade Runner, al contrario, ha influenzato. E beh, probabilmente ecco quella va da sé che insomma operazione che è ancora di là a venire, visto che insomma influenza, e come, non soltanto in termini sonori, in effetti poi gli ultimi pezzi saranno dedicati proprio al 2049 con Hans Zimmer, che incrocia tra l'altro con non con Jeff Mills, che appunto dentro il Blade Runner Esper Edition, quindi il bootleg forse più così, più tra virgolette completo, ecco, potremmo dire. E dentro tra l'altro ci troveremo anche altri personaggi che tra pochissimo andremo a ascoltare. Ma con Zimmer, Vangelis ha questa particolarità, Zimmer autore appunto del 2049, una colonna sonora sentirete, insomma, o se non l'avete già sentita e avete anche avuto piacere di appunto farvi come dire, farvi tremare sulla sedia cinematografica attraverso insomma i droni che vengono appunto presi da Vangelis. Buona parte insomma della colonna sonora di Zimmer è sulla riga di Vangelis, soprattutto è quello che era in nuce, neanche tanto poi, perché appunto certe cose sono veramente, certi bassi sono dronati sul serio già nella colonna sonora di Vangelis, vengono effettati in maniera anche, se vogliamo, appunto da sala cinematografica, quindi con un effetto insomma anche piuttosto insomma voluto e sentito anche per molti versi da Zimmer, che incrocia con Vangelis, una strana esperienza, potremmo dire così, un incrocio sonore come tanti se ne possono trovare, e nell'ultimo Blade Runner veramente sono tantissimi gli incastri che si possono fare con il primo, con Dick, con addirittura Barrogs per il nome Blade Runner, veramente c'è tutta insomma una letteratura, e vi insomma invito a leggere, molto anche interessante proprio per una sorta di rizomi, vari rizomi che riesce ad aprire, quindi una sorta veramente di allargamento infinito che dà questa materia. E comunque con Vangelis, Zimmer ha in comune i Crisma, il duo italiano geniale per molti versi, tra l'altro con Maurizio Arcieri che ci ha lasciato poco fa, un paio di anni fa, dove Zimmer tra l'altro ha suonato proprio con i Crisma. Ci sono anche un po' di video se volete andarvi a cercare, dove c'è Zimmer dietro le macchine insieme appunto ai due Crisma. E Zimmer tra l'altro insomma produrrà anche il lavoro di Crisma, che avevano appena finito di, oltre a essere prodotti da Vangelis, di prendere anche, questo lo trovate insomma come cosa non accreditata non ufficialmente, ma molte cose non sono accreditate ufficialmente dentro Blade Runner, però insomma cercandolo un minimo anche su Wikipedia troverete insomma la notizia che Crisma cercarono per Vangelis insomma vari suoni ambientali che poi furono trattati appunto da Vangelis, quindi anche qua faccende insomma che rimandano, specchi che è un gioco di vari specchi che rimandano e che ci portano appunto al 2049, tra l'altro dove c'è proprio Tears in Rain, proprio ripreso direttamente da Vangelis, senza appunto trattamento di Zimmer, o se è un trattamento molto, molto fedele insomma all'originale. E per quanto riguarda questa fantasma delle varie insomma edizioni, oltre che filmiche, ma anche delle colonne sonore di Blade Runner, beh, andiamo a prenderci quella che finirà insomma nel bootleg della, che citavo prima, della Esper, U York, duo ucraino di techno molto miliziana, quindi ci riprendiamo anche proprio con il Blade Runner ascoltato poc'anzi da parte del detroitiano Jeff Mills, qua tra l'altro ritrattato con una collaborazione in fase di remix con Zadik, DJ anch'egli molto influenzato dal minimalismo detroitiano, milsiano, di Robert Hood, e anche appunto come l'altra volta insomma che abbiamo inserito due detroitiani, ispirato in generale in termini proprio di visione sonora, ma non soltanto quelle, quindi appunto il gioco di specchi attraverso le varie fantascienze tecnoidi di Detroit attraversano, incrociano chiaramente Blade Runner più o meno in maniera esplicita, New York con appunto tutta l'acqua sotto i ponti che è passata, insomma l'acqua che si trova anche nell'ultimo Blade Runner rispetto al primo, quindi anche divergendo rispetto a questo e creando anche un forte impatto sonico nel momento appunto di un combattimento acquatico che anche qua ci riporta a altre mitologie detroitiane, New York che hanno un immaginario drexiano, quindi la mitologia acquatica, di combattimenti acquatici, oltre che avere un suono molto milsiano, con appunto la collaborazione remixatorio, potremmo dire, di Zadik, il francese, che appunto remixa questo Blade Runner concepito appunto da New York. Beh, lui ha voluto proprio far sentire bene il basso dronato di Vangelis, che per molti versi, insomma, è stato sotterraneamente maestro, tra l'altro recuperato anche con una bella dedica in uno degli ultimi dischi di Thomas Conner, che abbiamo messo qualche 451 frammenti sonori fa. E con quindi quello che era un riferimento detroitiano, quello che era un riferimento addirittura al di là di quello che una volta era l'oltrecortina, quindi con il duo di New York ucraino, e come se anche lì non ha sfondato, insomma, con immaginario che si proiettava evidentemente oltre sia quella cortina, appunto, immaginaria immaginata, ma anche se poi di fatto politicamente, insomma, piuttosto, insomma, netta, e sia oltre, insomma, un immaginario forte e fantascientifico, che tra l'altro da quelle parti non era affatto cosa, insomma, particolarmente straniera, anzi, se pensiamo, insomma, a un altro grande che tra l'altro dentro molto anche al 2049, soprattutto con l'immagine femminile, ovviamente Tarkovsky, che sembrerebbe molto lontano, ma poi in realtà per molti versi anche molto vicino a quello che era l'immaginario, appunto, anche in quel periodo, perlomeno, è ucraino. Poi dopo la storia è andata da un'altra parte, ecco, sicuramente è tuttora, insomma, piuttosto complessa, con appunto quelli che sono faccende scottanti come rapporti, appunto, Ucraina e Russia. Ma questo, insomma, per il momento ci interessa relativamente. Finiamo con Hans Zimmer e con, appunto, Blade Runner 2049, e facendo, insomma, un chiaro riferimento a quello che fu, appunto, la colonna sonora, appunto, di Vangelis. Appunto, abbiamo sentito, ho voluto far sentire proprio per bene la doppia botta che è dronante anche di Vangelis, oltre che, appunto, il drone unico che insomma apre per molti versi l'occhio proprio su questa Los Angeles del futuro, nel primo appunto Blade Runner, Ridley Scottiano, perlomeno, ecco, come direttore scatte, come final, ecco, così ci capiamo, e con immaginare, appunto, detroitiani, ucraini passati attraverso la Francia di Zedok come remix, siamo passati anche dal futuro suono di Londra, ovvero Future Sound of London, che ha omaggiato pienamente Vangelis con il coro che ricorda, appunto, uno dei momenti tra l'altro più evocativi di Blade Runner. Quello lo trovate sia anche nella versione dell'82 non apocrifa, diciamo, e nelle varie versioni, non nell'ultima, non c'è quella coralità, probabilmente anche perché Zimmer si concentra molto su quello che è, appunto, l'effetto dronante, molto decisamente invasivo in Zimmer, ma che già dentro il primo Blade Runner, dentro la colonna sonora di Vangelis, era se non invasivo, comunque di grande presenza, poi magari spostato anche su un piano molto molto così di grande anche malinconia, se vogliamo, per molti versi, momenti di insomma molto poetici anche, anche momenti, insomma, che ci portano verso intimità, ecco, che sembrerebbero, insomma, distanti dal dalle visioni fantascientifiche. Forse in questo senso c'era già un riferimento al mondo di Tarkovsky, forse già, però questa insomma la butto lì dentro già forse Ridley Scott, perlomeno in termini di visioni, quindi ci rimaniamo larghi, come dire, non specifichiamo, non andiamo a analizzare così una suggestione che comunque c'è sicuramente nell'ultimo Blade Runner 2049. Il suono appunto è quello di Vangelis, aggiornato attraverso un suono diciamo più spettacolare in termini appunto di effettistica, forse in questo senso insomma Zimmer, ma anche volontariamente, e conoscendo appunto, prima accennavamo il gioco di specchi, no, tra Zimmer e Vangelis, non vuole neanche insomma riprendere quello che è la colonna sonora originale così in maniera pedissequa, però di certo è quello che interessa a Zimmer, che riesce a fare anche con una certa maestria, è quello di prendere alcune tonalità e alcune atmosfere che crea Vangelis nel primo Blade Runner, soprattutto quindi appunto di grande potenza, e il suo drone è molto pulito, molto se vogliamo in questo caso veramente quasi hollywoodiano nell'essere non noise, nel senso appunto di sporco, di lavorare sulla sporcizia, anzi lavora molto sulla pulizia, e su appunto il drone ripulito da qualsiasi screziatura, e reso appunto potente, a volte anche addirittura tecno-marziale, potremmo dire, in alcune parti di 2049. Hans Zimmer, per chiudere, ci sentiamo poi la prossima settimana, magari riprenderemo anche il discorso minimo con Zimmer e con varie suggestioni. Per ora chiudiamo appunto con questo omaggio a Blade Runner 2049, quello di Scott, un po' anche quello dell'82, ma non mica tanto, quello lì, più che altro al Director's Cut, al Final, a questo 2049. Alla prossima, ciao da Max Macchia.